Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Il venditore in treno è inconfondibile. L'ho visti passare tanti. Tengono stretta la valigetta del campionario della loro merce come se fosse l'oggetto più prezioso di cui debbono rispondere. Molto raramente vedo donne che fanno questo tipo di mestiere. Le riconosci perché hanno un piglio maschile, non certo nella forma ma nella sostanza. Sono donne che devono difendersi, sono donne che devono andare a chiedere, donne che devono portarsi dietro un fardello da cui dipende la loro sopravvivenza e quindi devono in qualche maniera bilanciare il difficilissimo compito di essere donne in mezzo a un mondo che sembra fatto soltanto per uomini e svolgere una professione che richiede piglio, aggressività e spirito di convincimento tipicamente maschili. La signora che è di fronte a me in questo momento non ha difficoltà nel farmi capire che in quella valigetta che porta sulle ginocchia potrebbe esserci la panacea per ogni mia afflizione. E non posso fare a meno che compiacerla. Sono un agente di commercio, mi occupo di informazione medica per il settore omeopatico e quindi ho una zona vastissima e me ne succedono di tutti i colori e quindi io, sai, sono una comunicativa e mi diverto molto. Ma tu cosa batti? Le farmacie soprattutto? Oh no, dei medici e poi anche in farmacia perché tratto la vendita anche in farmacia. E nella valigetta cosa ti porto? Nella valigetta cosa porto? Nella valigetta porto, vabbè, i visual, le schede tecniche, i campioni da lasciare ai medici e poi porto nella borsetta invece di tutto e di più, dal lago al filo alla colla, perché può succedermi di tutto come già è successo. Quindi sei in continua transumanza te? Sempre, in continuo spostamento, faccio qualcosa tipo 45.000 km all'anno e quindi devo essere pronta ad affrontare qualsiasi tipo di evenienza. Beh, una donna nomade avrà una vita molto, molto avventurosa. Sì, le avventure succedono, le avventure positive, le avventure negative, magari la vecchietta che incontri nell'ambulatorio medico e che comunque ti rendi conto che poveretta è affaticata e quant'altro, allora dici, ma signora guardi, io la posso aspettare un attimo, la accompagno vicino alla destinazione, oppure mi è successo più volte, già un paio di volte, di dover intervenire tempestivamente su un cane che brutalmente attraversava la strada, oppure mi è capitato l'anno scorso un cagnolino che stava prendendo la tangenziale di Bra, mi sono fermata, ho chiesto aiuto ad altre macchine e l'abbiamo indirizzato verso la strada dei campi affinché non lo arrotassero. Quindi sei una salvatrice di poveri cani abbandonati soprattutto, fondamentalmente. Ma non erano abbandonati, erano forse anziani. Beh, qualcuno l'aveva lasciati lì, se no non rischiavano la vita. No, perché erano poi nei pressi di un nucleo abitativo, oppure essere arrivata per prima su un incidente stradale. Senti, di umani abbandonati ti capita mai di incontrarne? Gli umani abbandonati, più che quelli che fanno finta di abbandonarsi. Beh, quella è una tecnica, no? Beh, è una tecnica, è la classica tecnica di cuccaggio. E tu hai il cuore tenero, si vede, si capisce. Ma io sono una persona sempre disposta ad ascoltare gli altri, conseguentemente non voglio pensare male e mi piace pensare che magari dall'altra parte ci sia l'effetto effettiva necessità di chiedere un, tra virgolette, un aiuto. Vabbè, perché non vanno da uno psichiatra, da uno psicologo, da un prete, devono venire proprio da una venditrice di medicina. La psicologa, ecco. Sì, però è una tua illusione che vogliano un aiuto psicologico, scusa. No, a volte ti chiedono proprio, lo capisci, da tanti piccoli gesti e attenzioni, ma che ti capitano proprio incontrando la gente, oppure sali sul treno come stiamo facendo adesso e la persona che ti si siede davanti inizia a colloquiare perché capisci che ha veramente la necessità di comunicare. E secondo me quello che sta alla base della comunicazione, il fatto di essere aperti, è indubbiamente una cosa estremamente importante. Ma scusa, allora hai sbagliato mestiere, devi fare l'assistente sociale, la confortatrice, la suora, non lo so. No, la suora no, assolutamente. Vendi medicina, a te cosa ti importa? Devi curarli con le medicine, no? Ma io non con le medicine allopatiche, do sempre il mio aiuto, diciamo, fitoterapico, omeopatico nello specifico. Chiaramente devo rispondere a tutta una serie di standard aziendali. Cioè tu però... dici, se vuole le do un aiuto fitoterapico? Ma sì, capita un sacco di volte. Magari vedi la persona che ha una bruttissima dermatite o psoriasi. Ma che schifo, ma dai! Mani. E no, si nascono e dici, ma come? Ma lei non sa che potrebbe magari migliorare la sua situazione. Io cioè non la gente sono medico, si denuda in treno di fronte a te per farti vedere l'orrore della propria psoriasi. No, attenzione, non si denudano mai. Vedi le mani rovinate. Le mani rovinate, oppure capisci da una serie di piccoli gesti che sono persone che comunque ti lanciano un segnale. Ma vedi, scusami, io non è che voglio fare psicologia d'accatto. Tu c'hai un po' il complesso del povero gattino spelacchiato abbandonato, raccatti, cani brandagi, esseri putrefatti, cioè un po' ce l'hai questa passione. Che io sono una persona che forse perché mi fa piacere ricevere l'aiuto dagli altri nel momento in cui magari mi trovo in una situazione di emergenza, così allo stesso modo mi fa piacere se posso dare un aiuto, un contributo, anche solo un sorriso. Renditi conto che tu sei la vittima predestinata per tutti i marpioni che si fingono derelitti, malati, abbandonati, depressi, vittime di ingiustizie. Vengono lì e tu non chiedi di meglio che curare le loro ferite, lenire il loro dolore. Non in questo senso. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ero sul TGV, stavo andando a Parigi ed ero seduta a fianco di un ragazzo che sembrava islamico, quindi dico, ci picchia, c'era stato l'attentato dell'ISI da poco tempo, dico, ma metti che questo qua adesso... Tanto bene quello seduto vicino a te, vabbè. Al quindi... mio fianco. E poi ho visto che mentre leggevo il quotidiano allungava l'occhio per cercare di leggere i titoli, così poi ci siamo messi a parlare in lingua inglese. Ed effettivamente mi dice che era un ragazzo che viveva in Italia da una decina d'anni, un ragazzo egiziano, e che stava andando a Parigi a trovare dei parenti per poi spostarsi in Belgio a cercare dell'altro lavoro, perché la situazione lavorativa italiana è, come sappiamo tutti, molto critica. La cosa sorprendente è stata che, proprio perché io arrivavo per la prima volta a Parigi in treno, di solito ci andavo in aereo, questo ragazzo è stato così gentile, quindi mi ha smontato tutti i preconcetti che avevo avuto al primo impatto, mi ha accompagnata alla fermata della metropolitana dicendomi, guarda, adesso tu prendi la metropolitana in questa direzione e scenderai alla quinta fermata e ti troverai esattamente nella zona dove devi andare. E questo ti ha conquistata completamente. mi ha conquistata la sua spontaneità, la sua sincerità e quello che io dico molte volte. Ma ti sei mai domandata se tu fossi brutta e pelosa, se avessi Ma io non avuto... sono una gnoccolona, sono una persona normalissima. Normalissima. Beh, ma sai, sono anche tempi grami, questo, la gente si accontenta, scusa. Non è so... Ma no, evidentemente ho questo mio look che, non so, suscita interesse, suscita... Oppure... Perché è provocante, lo trovi provocante? Provocante, se voglio farla provocante magari mi vesto, sai, in versione un po' con i tacchi alti, in versione da donna cinquantenne che può anche esercitare una certa provocazione sul sesso opposto. Ma tendenzialmente vesto normalmente, elegante e sportiva, quindi non è che ci sia. Beh, sono quelle donne più intriganti, le eleganti sportive. Immagino. Di conseguenza da lì si aprono proprio delle, come dire, delle vie di comunicazione che comunque a me hanno sempre portato del bene. Però, scusa, vuoi farmi credere che in tutto questo tuo errabondare di anni in treni, aerei, automobili, autostrade, tu abbia trovato soltanto il povero ragazzo egiziano che ti ha accompagnato alla meta? Ho trovato ad esempio recentemente, sempre tornando da Parigi in aereo, il direttore commerciale estero di una grande azienda multinazionale che mi ha dato un sacco di dritte per, diciamo, migliorare la mia nuova attività lavorativa, ecco. Ed è stato, secondo me, un incontro estremamente costruttivo, perché ne ho fatto tesoro. Quindi, cioè, durante ogni la quotidianità si presentano sempre momenti di vita di cui bisogna fare tesoro, e la conoscenza delle persone è quella che veramente ti arricchisce, perché ti arricchisce. Poi, senti, a sentirti parlare tradisci o una volontà di nascondimento, o naturalmente forse sono io che fraintendo. Mi stai dando la descrizione di qualcosa a metà fra una croce rossina e una suora laica, qualcosa del genere? No, non posso immaginare. Una cosa del genere. Sono una persona normalissima che fa tesoro ogni giorno di quello che la vita le presenta, se sono incontri, se sono una fondamentalmente curiosa. E quindi, che può essere il discorso dell'incontro occasionale. Quando che ti sei mai pentita della tua curiosità? No. Mai? No. C'hai sempre avuto fortuna? Non mi sono mai pentita, perché comunque dalla curiosità, che non deve essere mai spacciata e smodata, e quindi niente storia di passione, massimo qualche cenettina a lume di candela finisce. Ma neanche, perché manco poi nel corso degli anni io ho avuto la fortuna anche di sposarmi con una persona che mi conosceva sin da quando ero ragazza, ecco, che però quindi è dire, la tua cintura di castità quando viaggi, la fedeltà matrimoniale. Sì, perché comunque non avrei ragioni per diciamo andare a modificare questi miei atteggiamenti, assolutamente no. E quindi io dico, così come anche mio marito è una persona altrettanto curiosa, altrettanto disponibile, propensa ad offrire un aiuto quando si può, ma anche quando siamo assieme, cioè abbiamo visto che questa cosa ci accomuna tantissimo e quindi ci porta veramente ad essere sempre... Ma non avete mai pensato di mettere su una missione? Voi due magari andate in giro, no, aiutate il mondo? No, però siamo stati in più volte in all'estero, anche, vabbè, lui è un chirurgo, e quindi laddove, ad esempio, avevo notato una situazione di una poveretta che aveva un problema, ho detto, senti, forse in questo caso puoi aiutarla te. E ci siamo messi tutti e due, abbiamo risolto il problema di questa signora che poi, rivedendola a distanza di un anno, non finiva di ringraziarla. Beh, è una vita invidiabile la tua. Voglio proporti per il premio l'angelo del Frecciarossa, perché veramente non ho mai trovato una passeggera così dotata di interiorità, di illuminato altruismo. Di solito mi raccontano tutte storie zozzissime di amori, di tradimenti, di passioni e lasciate. Tu non sei mai lasciata andare, viaggi tantissimo, ma sei come intangibile, vedi soltanto il bisogno e la sofferenza, ti occupi degli altri. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Quali sono i luoghi più pericolosi, però, in cui la tua incrollabile fede e fiducia nel prossimo è stata messa a repentaglio? Non so, negli autogrill delle autostrade, questi luoghi in cui... Nell'autogrill dell'autostrada non è stata messa a repentaglio, no. Però ho avuto modo di verificare che è un luogo all'interno del quale gravita prevalentemente la fascia maschile, e quindi se compare una donna o magari si sta mangiando il panino, c'è comunque questo avvicinarsi, c'è comunque questa voglia di entrare in comunicazione. Anche di entrare magari... soltanto, la comunicazione è molte volte un accessorio, mica tutti hanno così tutto questo desiderio di approfondire il rapporto, magari ci sono soltanto... perché ci sono i musoni, perché ci sono gli introversi, perché ci sono le persone che vivono in un piattume quotidiano e quindi sono stanche di tutti. Invece io dico sempre, cogliere la gioia della vita, la joie de vivre. Vabbè, però perché... fino a quello che hai raccontato finora è noiosissimo, scusa, dal mio punto di vista, io so che sono ormai un'anima perduta, ma... Perché no, io diventi la confidente degli altri, ti fai carico di tutte le angosce altrui. Vuoi sapere una cosa? Se io mi trovo a girare a piedi in una città anche che non conosca, è giurato 99 su 100 che indistintamente dall'anziano, dal giovane, dall'uomo, dalla donna mi dicono: scusi signora, gentilmente mi saprebbe indicare come faccio ad arrivare? Dico: guarda, io sono qua per la prima volta, mi dispiace, non posso esserle di aiuto. Forse devi fare il vigile, il boy scout. Ma non lo so, forse l'ufficio informazione. L'ufficio informazione. L'importante è che tu sia realizzata. Forse saranno i farmaci omeopatici che ti danno questa sorta di serenità. L'omeopatia dà un grande aiuto, assolutamente. Bastano averci malattie gravi, poi uno sta benissimo, certo. Certo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi se ci sono situazioni veramente drastiche. Lì c'è tuo marito, tutto. C'è tuo marito con il bisturi che interviene lui. Interviene proprio dai tanto. Però è un uomo fortunato, può mettere su di te la mano sul fuoco, viaggi e attraversi le folle uscendone sempre incontaminata dalla malizia, dalla cattiveria, dalla lussuria, dal timore di Dio. Ma perché comunque io penso che nel momento in cui tra marito e moglie ci sia comunque tanto la fiducia, la stima, va bene. Poi per carità, può girare l'angolo lui come lo posso girare io, mi gira 5 minuti e succede il patatrac. Ma è successo mai a te, no? No, allora, assolutamente. I tuoi angoli, dietro il tuo angolo c'è sempre un altro angolo, alla fine torni sempre al punto di partenza. Ma questo è bello, è giusto, è buono. Ma guarda, ogni tanto sono contento, per me è una grande lezione questa. Molti mi accusano di essere un ricercatore di storture o di trasgressioni nell'umanità. Trovo finalmente una donna che in realtà sta studiando da santa, non posso che inchinarmi. Che a 50 anni si è fatta le sue esperienze di vita pregresse e quindi è arrivata, diciamo, dai 40 anni in poi. Ma dove l'hai fatta? In parrocchia? In parrocchia, io non sono assolutamente una persona così orientata. No, vivendo la quotidianità nei miei lavori precedenti. Vabbè, sarei andata a ballare qualche sera in Balera, dai, lo capisco. E ti sei stretta al tuo compagno, vi siete anche guardati negli occhi e forse anche pensato a darvi un bacio. Ciao, io devo scendere, c'è la stazione. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Nel mio viaggiare capita naturalmente di entrare nei momenti di buio e di afflizione. Sono i momenti in cui il mio smartphone non ha campo. sono le gallerie, se non sono collegato al wifi delle ferrovie, che non sempre è proprio una bomba, sono i momenti in cui improvvisamente mi sento isolato dal mondo. Eppure non dovrei sentirmi isolato, perché sono circondato da esseri umani, ma non mi basta più. Faccio parte ormai di quell'umanità che ha accettato il suo grado di velocissima e forse inconsapevole evoluzione, per cui senza la mia protesi funzionale io mi sento un uomo a metà. E quindi quando non posso collegarmi, non posso twittare, non posso leggere messaggi, non posso navigare in rete, non posso riferire al mondo intero quello che passa per il mio finestrino, la persona davanti a me che si è tolta le scarpe, quanti calzini ho fotografato in treno e quanti non immediatamente twittati. E quanto mi fa sorridere vedere i commenti salaci, divertiti, ironici, a volte anche aggressivi, di persone che nemmeno conosco rispetto al piede scalzato della persona che mi sta accanto. Io sento la puzza di quel piede, ma lui non sa che già sto mettendo alla berlina questo suo gesto che reputo fra i peggiori che si possano fare in treno. Ebbene, una volta a me capitò che si ruppe il mio smartphone. Caddi irrimediabilmente e si ruppe il vetro. È qualcosa che assomiglia alla fine di un universo, al tracollo in un buco nero. Perché? Perché bisogna immediatamente portarlo al centro di assistenza, non è che te lo ridanno subito, te lo tengono qualche giorno. E io immaginavo che avrei passato qualche giorno staccato dal mondo. Era come passare dei giorni in una cella di sicurezza, e come passare quei giorni in una buca profonda, in una sorta di nero luogo in cui mi sarebbe stato interdetto il contatto con le migliaia di persone che non conosco, ma che mi danno ragione della mia esistenza. Il mio smartphone è morto esattamente 3 ore fa. La sua assenza già si sta facendo atrocemente sentire. Ancora maledico quella mia frettolosa e colpevole disattenzione nell'infilarmelo distratto nella tasca dei pantaloni. Lo vidi ai miei piedi, miseramente sgusciato e con le batterie schizzate via. Sotto il touch, che tante volte avevo accarezzato, si era aperta la traccia di una ferita netta che attraversava il quadrante sinistro superiore del display, quasi fosse una coltellata. Qualche sussulto di luce verdolina e poi fu buio. Il primo istinto fu di cercare soccorso. Mi sarebbe bastato cercare l'indirizzo del riparatore più vicino e portarglielo subito, implorando di operare all'istante e cercare di salvarlo. E dove lo cerco, che lo smartphone è morto? Come mi localizzo senza il GPS? Vago disperato, chiedendo in giro ai passanti se mai sapessero di un laboratorio che ripara telefonini da quelle parti. Mi guardano come un alieno. Una signora attempata mi dice sprezzante: «Ma lo cerchi su internet, fa prima!» Per me anche internet è spento. Fino a che non sono rientrato a casa per attribuire giuste esequie al mio caro estinto, per me il mondo si era improvvisamente ristretto al misero perimetro raggiungibile dai miei sensi. A occhio non arrivo a vedere oltre 50 metri scarsi. Oltre non distingo anche con gli occhiali multifocali e penso a prima, quando con le mappe aeree tridimensionali volavo sui tetti della città e in un istante ero ovunque. Mi sono così sentito un viaggiatore del tempo che fosse approdato in una dimensione parallela. Proprio come un fantasma che cerca di richiamare l'attenzione dei viventi, ma nessuno lo nota perché lui è invisibile. Non ho nulla da mangiare a casa. Uscirò solo il tempo indispensabile per andare al supermercato qui sotto. Non posso tollerare che nel frattempo qualcuno possa cercarmi sui social e io non lo sappia subito. Mi sono accorto che lo smartwatch può anche funzionare come semplice orologio. Pur non collegato, lo tengo al polso. Quasi quasi mi porto dietro anche il cadavere dello smartphone. So che loro due soffrono se sono separati. Ore 18:52. Mi sono accorto di una fantastica parziale resurrezione. Meglio sarebbe dire un'evocazione medianica. Lo smartwatch ha ripreso a intercettare le notifiche delle varie messaggerie. Posso leggere gli incipit sull'orologino? Non posso rispondere. Serve a poco, però è già qualcosa. Questo significa che il mio smartphone, in realtà, è in uno stato di morte apparente. Il suo cervello continua a funzionare. Lo alimenterò comunque fino al verdetto tecnico a cui lo consegnerò lunedì. A differenza della maggior parte delle persone che incontro, soprattutto femmine, Jacopa ha una voglia pazza di raccontarsi. Veramente non le avevo chiesto nulla, a me non interessava tanto chi lei fosse o cosa lei facesse, perché in quel momento ero molto occupato a osservare lo stato comatoso del mio smartphone. Ma comunque mi ha accompagnato al vagone ristorante, dove ahimè c'è una musica di sottofondo che a me incute soltanto desiderio anoressico, e ha cominciato a raccontarmi la sua esistenza di felice single realizzata e soddisfatta. Il punto di partenza di questa scelta mi lascia qualche dubbio. Jacopa è una simpatica ragazza che è diventata single perché ha letto delle meraviglie del nubilato in un libro di Aldo Busi. Io ho 32 anni, abito a Roma, diciamo che mi sono innamorata dell'essere single, perché una volta ho letto un libro di Aldo Busi, spiegava bene cosa voleva dire essere single, e quindi io da quel giorno ho deciso, beh, in effetti anch'io lo dovrei essere, dove diceva che si abitava da soli, ci si manteneva da soli, non c'erano mamma e papà, non c'era nessun tipo di accoppiamento nel senso così di dipendenza da qualcosa di esteriore, e quindi così idealisticamente mi sono inoltrata in questo cammino. Sono in fondo argomenti già stradetti, straletti, strascritti, straromanzati, strafictionati, strafilmati, però piace sempre capire quello che è il segno della contemporaneità. Quando una donna che ha conquistato finalmente la sua autonomia, che finalmente può dire di essere come un uomo, è padrona delle proprie scelte economiche, delle proprie scelte di sentimenti e di gestione del proprio corpo, della propria vita, del proprio tempo, lentamente, con un profondo languore, comincia a riguardarsi intorno e pensa che forse qualcosa si sta perdendo. Da donna biologica è un po' più difficile essere single, perché viene capito subito come un essere a disposizione, cioè la single, lungi dall'essere una donna emancipata, libera, che fa un modello ideale, invece è una abbastanza così sola, disperata, in cerca, che si accontenterebbe di tutto, anche dello scrondo, pur di svoltare una serata, e quindi vieni presa d'assedio. Sono molto più strategici, ho notato, cioè vedono quanti messaggi ti arrivano, se ti arrivano telefonate, vedono che uno abita da sola, lo capiscono, e se non te lo chiedono vuol dire che loro per primi sono già accoppiati. Comincia così la ricerca disperata nell'universo dello sfigatume maschile. È vero, sì, la donna single ha sopra la testa una sorta di lettera scarlatta che non voglio qui esplicitare perché mi darebbe un segno troppo doloroso di quanto possa essere volgare il pregiudizio maschile. Insomma, questa grande lettera scarlatta che campeggia sulla sua testa la segnerebbe come una possibile preda. Donna single vive sola, quindi ha un posto, ha una location in cui è facile consumare atti amorosi, atti repentini, atti fugaci e voraci. Una donna che vive sola è una donna libera di costumi, è una donna che per natura è come un uomo e quindi sceglie il suo piacere, il suo diletto, non sapendo poi questi uomini che in realtà una donna che vive sola è il pericolo più grande per l'integrità maschile, perché è una donna che cerca un uomo e soprattutto lo cerca per la vita. Può essere un maschio a caccia già accoppiato con moglie o fidanzata ufficiale o altri impicci, e allora a quel punto a lui non gliene importa niente se tu sei single o meno, anzi gli fa quasi paura scoprire che sei single, perché capisce che poi tu avresti un'altra posizione. Oppure invece c'è quello lì proprio senza vincoli e senza legami, però quello già è una rarità, quindi a me single non dispiace nemmeno incontrare uno che non sia vincolato da sentimenti o da legami affettivi. quando sei single, mai accettare inviti per andare a bere qualcosa dopo. Io sono stata illuminata dalla lettura di un libro di Franco Califano che spiegava ai suoi colleghi tutte le tecniche, le cose. Allora io me lo sono letto, così sono preparata e li vedo, no? Allora, di solito è sempre meglio se qualcuno ti invita così a pranzo oppure a una cena, ma regolare. Invece già quelli che partono con il caffè oppure con il drink dopo, vuol dire che insomma devi stare attenta, perché o in macchina o da qualche parte partiranno all'attacco. L'elemento che più mi repelle della convivenza con un uomo? Penso nulla, a parte quelle cose che tutti sanno, tipo, non so, che va in bagno, si fa la barba e lascia un casino, oppure se sta male con 37 di febbre sembra che debba andare all'ospedale, mentre tu invece magari con 39 stai lì a passare l'aspirapolvere. Queste cose qui, insomma, quindi sono cose che sono accettabili, voglio dire, anche le donne hanno un miliardo di difetti e li puoi superare. Da uomo è sempre interessante confrontarsi con il bestiario che raccontano circa l'universo maschile le donne che di uomini hanno esperienza. Sono le donne sole, sono le donne che rappresentano un maggior bersaglio, sono le donne selvaggina, ma perlomeno in un malinteso senso comune, che una donna sola sia quella più disposta e propensa ad accoppiarsi con altri uomini. Assolutamente non è così. Una donna che vive sola molte volte è anche molto innamorata della sua solitudine. Una donna che vive sola può scegliere molto di più di una donna che ha già una relazione. Una donna che vive sola è implacabile comunque nelle sue scelte, è insindacabile nel suo giudizio. Una donna che vive sola molte volte sì, può essere una preda facile, ma può essere anche una terribile minaccia per la serenità di un uomo che in realtà non vive solo. È vero quello che dice la nostra amica, è proprio vero. La single in realtà è bersaglio per gli uomini scavezzacolli eterni, per gli eterni figli di mamma, per i separati, per gli abbandonati, per gli lasciati, per gli sfigati, per gli avventurieri, per i Don Giovanni, per i compulsivi, ma è da considerare in zona pericolo per un uomo che vuole fare una vita un po' più tranquilla. Il treno va. Ed eccoci al vagone dello sfogatoio. Sì, perché ormai ho deciso che vado sempre in una particolare carrozza e in un particolare posto quando leggo e commento l'audiolettera che mi viene mandata da un ascoltatore o da un'ascoltatrice. Ultimamente sto dando spazio agli uomini. Sì, perché anche gli uomini in fondo presentano degli aspetti che non fanno altro che ribadire le convinzioni, i pregiudizi, sempre gloriosi i miei pregiudizi, l'esperienza di un uomo. Ma fa piacere capire che i compagni di sventura, passata, presente, forse futura, hanno sempre qualcosa da dire e hanno sempre qualcosa da aggiungere a quello che ormai sembra il già tutto detto rispetto a disparità anche cronologiche in una storia d'amore. Caro Nicoletti, ho ascoltato anch'io gli ultimi tuoi casi di storie al maschile e alla fine mi sono deciso a scriverti, pur sapendo che non sarei più indulgente per questo. Ma godendo dell'anonimato mi fido molto di più di un giudizio disinteressato e libero come il tuo di quello di persone che mi conoscono, che magari hanno paura di ferirmi, offendermi o simili. Sono un 52enne separato, un matrimonio con un figlio durato 9 anni. Non voglio ora ripercorrere tutte le fasi delle mie vicende coniugali, ma a un certo punto non potevamo più continuare. Quello di cui voglio parlarti non è la fase prima, ma quella dopo la separazione. Ti ritrovi proiettato a 50 anni in un universo sociale e relazionale a te ignoto. le classiche amicizie di coppia che hai coltivato durante il matrimonio si affievoliscono. Ricominci a fare una vita da single, ma con 30 anni in più rispetto a quando la facevi da studente. E gli amori? Confesso che ho ricominciato con gran diletto a sedurre e a farmi sedurre. Ho riscoperto la leggerezza, il piacere di scrivere o a rivolgermi a una donna con quella malizia che ormai avevo archiviato da tempo. Insomma, ammetto candidamente di essermi divertito e reinventato come uomo. Mi sono anche sorpreso della vitalità sopita che mi portavo dentro. Ma dopo un anno in cui mi sono goduto questa seconda giovinezza amorosa, ho incontrato una persona che mi ha rifatto venire voglia di un legame stabile. Ed ecco la prima considerazione. Per quanto uno da sposato sogni un futuro di eterna e beata singletudine, alla fine non so perché, e te lo chiedo, riemerge un desiderio di riprovare a condividere con una donna qualcosa di più di un weekend o di una notte. Ahimè, posso dire che ci si può innamorare anche a 52 anni. Dov'è il problema? Il punto è che la donna di cui mi sono innamorato ha 26 anni, esattamente la metà dei miei. Io dico donna, i miei amici invece ragazzina. È un caso tipico di fuochi d'inverno. Questa persona che in fondo non ha nemmeno un'età molto avanzata, 10 anni meno di me, è un ragazzino, però riscopre il piacere della vita sociale che si può gestire senza gli orpelli e gli oneri di una famiglia alla quale bisogna comunque accordarsi. Però compie naturalmente un errore, oppure compie un passo molto ardito, molto azzardato, molto rischioso, probabilmente anche di grande soddisfazione. Si fidanza, si mette assieme, diventa compagno di una donna molto più giovane di lui. Vecchia storia, storia antica, storia ormai superata. Ma avere una donna a 50 anni che ha la metà dei tuoi anni, in effetti qualche problema probabilmente lo rappresenta. Non è il classico quadro di signore attempato che si fidanza con la badante bielorussa, non è assolutamente lo scavezzacollo che va a fare il viaggio culturale a Cuba o in uno dei tanti paradisi e se torna dietro con una ragazzetta molto esigente. No, è una normale e anche banale storia d'amore fra un signore attempato, perlomeno di mezza età o perlomeno maturo, con una donna che potrebbe essergli non soltanto figlia ma forse anche nipote. Quando l'ho presentata ad amici e conoscenti in occasione di una festa, ho visto quei volti nascondere il pensiero: eccolo lì, il 52enne in crisi di mezza età che insegue la giovinezza mettendosi con la ventenne. E qualche caro amico si è così preso a cuore il mio caso, al punto da andarlo a riferire a mia moglie, la quale ha preso il telefono e mi ha urlato: ecco, ne ero sicura, mi fai schifo, siete tutti uguali. Ecco, anche per te siamo tutti uguali. Io sono un uomo libero ora, faccio quello che mi pare, non credi? Perché subito pensare male? Non si tratta di una disperata che si accolla un vecchio pur di avere uno straccio di futuro. La ragazza in questione lavora e vive da sola da anni. Eppure la condanna sociale che avverto intorno a me è evidente. Gli uomini, soprattutto quelli sposati, in realtà credo che provino sotto sotto una certa invidia. Le donne invece, soprattutto quelle di una certa età, si sentono umiliate e vorrebbero farci a pezzettini, a noi che incarniamo l'uomo che preferisce sedurre le figlie alle madri. Ma in questo periodo ho frequentato anche mie coetanee, o giù di lì. Che ci posso fare se nessuna di loro mi ha conquistato? Con chi mi devo sentire in colpa? Tutti mi dicono: vedrai poi quando la tua 26enne ti lascerà per un suo coetaneo, che faccia farai? E che faccia farò? Spero una migliore di quella di uomini condannati a non vivere più l'amore. Certo, sono scelte che si pagano. Si pagano con l'invidia degli altri uomini, che di loro dicono: vedi che bel bocconcino, che in fondo si pappa. Ma poi subito dicono: ma vedi, sta con lui per interesse, sta con lui lo farà cornuto, sta con lui perché magari ha un complesso d'Edipo. Gli uomini hanno sempre una cattiveria da dire, le donne ne hanno ancora di più. Perché si becca quel vecchione, perché si becca quello squallido, perché si becca quel rottame. Una ragazza come lei potrebbe avere chi vuole, ognuno comunque si fa i fatti degli altri. Ma la vera domanda, il vero dilemma, è proprio quello finale che mi pone l'ascoltatore. Sì, ma arriverà un momento in cui questa divergenza di età, questa disparità, sarà un baratro talmente incolmabile che dovrò rendermi conto che questa donna non potrà più stare con me. Certo è che la matematica in questo senso è implacabile. L'equazione che il nostro amico sarà fatta già mille volte nella sua testa e non vorrà sentire dire, la rappresento qui immediatamente per far capire quanto i confini dell'amore possono essere labili se applicati in una rigida equazione matematica. Certo, mi citerete Picasso, che era vecchissimo, stava con una donna giovanissima, di lui innamoratissima. Mi citerete Borges, che aveva in Maria Kodama la sua musa, una giovane giapponese che lo ha seguito e lui era decrepito e cieco. Ma parliamo di artisti, parliamo di uomini illuminati. Polomo comune immaginare che una donna di 40 anni sia ancora innamorata e appassionata di lui quando ne avrà 66. Ma sì, se lui si mantiene bene, fa sport, ha una buona vita fisica, una buona vitalità, una quarantenne può stare anche con uno splendido ultra sessantenne. Ma una cinquantenne, con una donna ancora nel pieno della sua vigoria, nel pieno del suo fascino, una donna cinquantenne oggi è quasi una ragazza, può stare con un uomo di 76 anni? Ma con un po' di pazienza, con tanto spirito di adorazione e riverenza, può essere. Ma una donna di 60 anni, che sarebbe una mia coetanea, le mie coetanee sono donne che guardo con occhio molto interessato e interessante, sono donne che hanno ancora molto da dire. Cosa da dirsi con un marito, fidanzato, compagno, amante di 86 anni? Beh, 86 anni cominciano ad essere un po' tantini. Una sessantenne ancora si sacchitta bene, fa palestra, si veste bene, si mette un bel tacco, si fa dei bei massaggi, è ancora una donna appetibile, ancora un mercato. Ma un uomo di 86 anni, a meno che non sia un poeta, un letterato, un pensatore, uno scienziato, un uomo dal sublime pensiero e dalla profondità inenarrabile, quale può essere il suo mercato nel campo del sentimento, dell'amore, della passione e del sesso? Is it getting better? Do I feel the same? Will it make it easier on me now? I've got someone to blame.